Sono Nicolò Reverdini, coltivatore diretto. Conduco un'azienda agricola fra Cisliano ed Albairate, un'azienda biologica. Ho iniziato la mia attività nel 96, venendo da una vita ed una cultura urbana, e l'ho iniziata su un fondo di famiglia caduto da circa 15 anni in abbandono parziale. E ho iniziato l'attività dunque in un momento particolare, perché al principio degli anni 90 la comunità europea, la politica agricola comunitaria, ha iniziato ad incoraggiare e a incentivare i metodi di coltivazione ecocompatibili a basso impatto ambientale. Ho introdotto i metodi dell'agricoltura biologica e contestualmente quelle misure sempre promosse e incoraggiate dalla comunità europea che incoraggiano a mantenere e a potenziare degli aspetti tradizionali della campagna, come le siepi, le coste alberate, quindi la costituzione di zone umide, cioè tutta quella serie di interventi che accanto a forme di coltivazione ecocompatibile svolgono una promozione e un miglioramento dell'ecologia dei luoghi. Accanto a questo nuovo concetto, anche piuttosto coraggioso, della comunità europea nell'incentivare le nuove forme dell'agricoltura, si accosta oggi la promozione della multifunzionalità dell'azienda agricola. Essendo in crisi i redditi agricoli, si incoraggiano gli agricoltori a divenire anche operatori culturali, dunque ad introdurre all'interno della propria azienda la proposta di servizi rivolti al pubblico. I più noti e spesso anche diciamo poco seri, insomma mal praticati, sono i servizi agrituristici di ristorazione, ma ne esistono tanti altri: il pernottamento, le attività culturali, le attività didattiche e ricreative, insomma ne esistono di differenti. Anche da questo punto di vista, chi oggi si accosti, della mia generazione, all'attività agricola può incontrare alcune agevolazioni che possono, diciamo, dare un certo sollievo, modesto, ma comunque un certo sollievo agli investimenti in questa direzione. Naturalmente ho iniziato a coltivare all'interno di un'area fortunata, perché è vero che, come è stato detto questa sera, l'urbanizzazione e l'industrializzazione sono arrivate quasi dappertutto. Però è anche vero che fortunatamente il basso milanese, in ampie sue fasce, si è conservato e presenta ancora una economia rurale sicuramente indebolita, sicuramente in crisi, ma ancora immersa in un contesto di grandi potenzialità in questo senso, proprio per la conservazione del paesaggio agrario. Le coltivazioni che ho avviato in azienda sono state, diciamo, molto diverse, molto diversificate: ortaggi, cereali e leguminose, prima da foraggio e poi da alimentazione umana, e prati permanenti. La formula di vendita che ho utilizzato sin dai primi anni e che poi nel corso delle esperienze ho così diversamente perfezionato è quella della vendita diretta al pubblico in cascina degli ortaggi. Si è svolto in una grande serenità. Devo dire, è la mia prima esperienza con un gruppo di acquisto organizzato, che sono di una meticolosità addirittura imbarazzante, perché preparano delle tabelle precisissime dove indicano sin dall'inizio dell'anno quali sono i quantitativi medi, che poi magari vengono disattesi, ma che spesso sono molto precisi, di consumo delle singole famiglie. Sono molto sensibili e intelligenti alla variabilità della situazione nel corso di un anno, per cui magari le loro attese rispetto ad un prodotto, l'anno scorso è capitato per i legumi, non hanno soddisfatto i quantitativi che speravano, ma d'altra parte invece per altri prodotti che hanno scoperto un po' nel corso dell'anno sono stati insomma felicissimi di trovarne invece in quantità più abbondanti di quanto non desiderassero al principio. Quindi questa capacità di elasticità e di adattamento è stata ottima. E poi la formula che secondo me agevola moltissimo sia l'acquirente che l'agricoltore quando si instaura un rapporto di fiducia, che è quella dell'assoluta autonomia di chi viene a comprare la verdura, perché io metto a disposizione gli orti, naturalmente ci sono delle regole che si stabiliscono sulle modalità del raccolto. La verdura viene raccolta e pulita in luogo, c'è un capannone agricolo con delle vasche dove si può o pulire di fino oppure solo sgrossare la verdura, e dopo viene anche pesata dagli acquirenti e portata a casa dopo essere stata pagata se io sono presente, o altrimenti la spesa viene annotata su un libretto, diciamo un quaderno di azienda, e i conti si possono fare benissimo la settimana successiva o anche alla fine del mese. Questo permette ad esempio al coltivatore di poter svolgere, soprattutto quando l'azienda ha una conduzione familiare come il caso della nostra, di poter svolgere delle operazioni agricole anche durante il tempo della vendita. E per converso permette agli acquirenti di poter accedere all'azienda magari in più momenti di una settimana e non soltanto in due mattine o giornate convenute, come è di solito quando si fa il mercatino, che obbliga naturalmente l'agricoltore ad essere presente, a pesare, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire che a dispetto delle preoccupazioni iniziali, questa formula che abbiamo adottato l'anno scorso ha incontrato molto favore da parte del gruppo di acquisto e delle famiglie di privati che si sono diciamo associate a questa esperienza, e devo dire un'ottima impressione anche da parte nostra, tanto che quest'anno sarà ripetuta e ingrandita. Una formula di questo genere credo sia ideale per creare le più semplici premesse di un riavvicinamento del mondo urbano, che poi naturalmente non è solo urbano, perché da noi, come in tutte le aziende che fanno vendita diretta in quest'area, arrivano anche molte persone che invece vivono in campagna e che sono abituate ai prodotti della campagna ma che magari non hanno un orto in proprio. Però questo aspetto di contatto diretto con l'orto, questa scoperta ad esempio della pianta della zucchina, a parte il fatto che molte delle persone che vengono a raccogliere per la prima volta vedono come è fatta proprio morfologicamente la pianta di un cetriolo piuttosto che quella di un pomodoro, ma poi non so, il contatto appunto con la pianta urticante della zucchina, oppure l'osservazione mentre raccolgono di una zappatura di cipolle o d'aglio e della delicatezza di quella data operazione, la ricchezza, la fertilità del terreno coltivato organicamente, la ricchezza della presenza di insetti, di animali utili, rane, rospi, capita anche che vedano delle bisce d'acqua quando diciamo la vegetazione è piuttosto folta, dei conigli selvatici, eccetera. Questi aspetti di immediatezza direi proprio di ordine fisico, secondo me sono fra le ricette migliori proprio per riavvicinare le persone anche alla semplicità, ecco, la semplicità proprio della terra. Lo stesso, e poi voglio lasciare spazio agli altri, ma tengo a dire anche di questo visto che si è parlato di agriturismo, lo stesso si può dire per gli aspetti che riguardano l'attività didattica. Noi operiamo all'interno del Parco Sud, siamo in una zona di interesse naturalistico del Parco Sud, e questa diciamo ubicazione, ma non solo questa ubicazione, perché è possibile farlo anche in zone non naturalistiche, per questo ne parlo, cioè non è diciamo un'esclusiva delle zone naturalistiche questa. Il Parco Sud mette a disposizione dei fondi per iniziative didattiche che coinvolgano le scuole del territorio. Questo progetto ad esempio ha permesso di formare durante l'anno scolastico i bambini delle scuole con delle guide specializzate, che hanno cominciato a prepararli su quello che avrebbero visto uscendo poi in campagna, ma non a prepararli in un modo diciamo teorico, già prepararli in un modo molto empirico, facendoli disegnare quella data pianta, quel dato fiore, eccetera, no? All'atto dell'uscita, i bambini già preparati hanno preso letteralmente possesso di un aspetto del paesaggio agricolo, di un aspetto del bosco. La nostra azienda è contornata da un bosco secolare, di cui già avevano sentito qualcosa. E nel corso degli anni, i bambini che hanno ripetuto questo esperimento di formazione scolastica e di verifica sperimentale sul campo hanno mostrato di avere, diciamo, una sensibilità e un'attenzione e direi proprio un'intelligenza rispetto al mondo naturale e agricolo del tutto immediata, insomma, dopo questo lavoro fatto in precedenza. Io vi posso dire che sono rimasto così incuriosito da questo. Io ho studiato a Milano e vi devo dire che i veri barbari che sono venuti a Milano sono stati i ragazzi delle medie, dove, della scuola dove ho studiato io, il liceo Parini, che hanno perfino palpeggiato una delle guide naturaliste che li accompagnava nel bosco. I ragazzi delle scuole elementari arrivati alle medie, che ora vengono in visita all'azienda, godono proprio letteralmente dell'osservazione, di questo gusto proprio dell'osservazione. Sono in grado di riconoscere le piante dell'orto, i cereali, gli animali del bosco. Ecco, quindi questi, diciamo, questi livelli di avvicinamento alla campagna, che possono essere la vendita diretta o la didattica, che sono ormai fortunatamente ampiamente praticate nelle nostre campagne fra Parco del Ticino e Parco Sud, credo che costituiscano due chiavi essenziali, perché la comunicazione deve arrivare nel modo più semplice, le persone devono essere direttamente coinvolte, e soprattutto in un mondo così così in crisi, parlo del settore agricolo, è molto importante anche non compiere l'errore in questo passaggio generazionale, che potrebbe veramente portare ad un nuovo fenomeno massiccio di inurbamento per il mancato proprio reddito agricolo, e quindi per la mancata poi dignità di una professione. È molto importante non spaccare il mondo agricolo, cioè puntare sulla buona agricoltura in ciascuna delle sue espressioni, che sia agricoltura biologica, agricoltura integrata o anche agricoltura tradizionale. Se è buona agricoltura, quell'agricoltura va difesa, e la tutela del mondo agricolo va vista proprio in questo insieme di bontà, ricordando che quel paesaggio che si è così ben conservato ancora oggi è un paesaggio che unisce tre ordini di ragioni: quelle naturalmente economiche, perché bisogna portare a casa qualcosa alla fine della giornata, quelle morali e quelle estetiche. Parlando con una simpaticissima mamma di un mio amico agricoltore di Albairate, due settimane fa mi raccontava di quando era una ragazza e parlava della grande povertà della famiglia, delle famiglie di campagna, rivendicando però questo onore della bellezza, della pulizia dei campi, di questo paesaggio proprio ordinato, che naturalmente la famiglia garantiva i beni, cioè la famiglia non soffriva, ma questa idea di un paesaggio che nei suoi valori integrali, in tutti i suoi valori economici, morali, estetici, sia davvero riconsegnato alle nuove generazioni e che sia davvero trasmesso come patrimonio della cultura urbana, insomma, è un augurio importante. Vi ringrazio.